in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up. Qui con voi Patrizia Curreri e il nostro mai amico inseparabile Fabio Riberto. Buongiorno a tutti, buon risveglio. Oggi è venerdì 31 maggio 2013, l'ultimo giorno di maggio, quindi dobbiamo festeggiarlo come si deve, come se fosse magari il 31 dicembre, chissà. Ed è finita anche questa. Sì, è finita. Io ne devo approfittare perché devo fare gli auguri a una coppia che oggi compie 44 anni di matrimonio, che sono mia mamma e mio papà. Auguri, auguri. Tantissimi auguri. Ora come ora sentire 44 anni di matrimonio è davvero incredibile. Però ci sono ancora quelle coppie che resistono fortunatamente e che danno speranza a tutte le future coppie di farcela, di potercela fare, di poter affrontare tutte le difficoltà che una coppia, si sa, ci sono e si deve convivere con queste cose. Però altri tempi, Patrizia, bisogna ammetterlo. Sì, altri tempi, però c'era meno facilità nel separarsi, nel divorziarsi. Adesso c'è troppa facilità e quindi si vede come la strada più facile, secondo me. Può essere. Quindi prima magari si nascondevano molte cose, c'era molto molto omertà. Adesso non c'è più libertà, c'è più trasparenza, però ci sono più separazioni, quindi bisogna vagliare un po' le due cose. Magari ora siamo completamente all'opposto. Ecco, sì, speriamo che questi valori comunque si mantengano, perché il valore della famiglia è importante sia per noi sia poi per i nostri figli, nipoti, e quindi è importante, molto importante questa cosa. Sì. Comunque, parlando appunto di noi, dobbiamo appunto oggi dobbiamo svegliare di nuovo i nostri ascoltatori, i nostri fan in ascolto, e lo facciamo con la bella musica. Iniziamo bene. Iniziamo con David Guetta, con la nuova canzone fatta con Neyo e Akon, con Play Hard. You got in your pocket, okay. I beat the way that you rockin' with that thang thang. Girl, stop it, wanna just bang bang and pop it while the club crowd are just watching you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball, and it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Some fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff, and all my people with my trust. Holding down for my city. If they asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. And it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Work it out. Said our hustler's work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Torniamo qui a CRM Happy Wake Up con voi, noi sempre Patrizio Curreri e Fabio Di Liberto. E ricordiamo che potrete seguirci dal nostro sito www.crmhappyradio.it oppure inviare un sms al 335-56-37251, giusto Patrizio? Sì, perfetto, perfetto. Gli speaker per prima cosa devono dire queste coordinate, sì, perché sì, naturalmente dobbiamo interagire con i nostri fan, anzi loro vogliono interagire con noi, dobbiamo interagire tutti, ecco. E però, come sentite già dai telegiornali, già si sanno le date di inizio di esami di maturità 2013. Bocca al lupo, sono tutti lì ragazzi a vedere un po', fare il toto esami, quindi chi ci sarà tra i temi, chi così, e tutte varie cose che conosciamo per bene. Sì, sì, però c'è chi, naturalmente non affidandosi alle proprie potenzialità, si chiede aiuto ai santi. E qua ci sono una spezia di santi a cui potete rivolgervi. E io ti devo dire un aneddoto, una piccola cosa che è successa a me. Non trovavo da molto tempo, per un mese, un diario dove ho scritto le mie poesie. E pregando Sant'Antonio, perché poi ho cercato su internet quale santo devo pregare per trovare questo mio diario nascosto non so dove. E alla fine c'era scritto su internet che mi dovevo rivolgere a Sant'Antonio. C'era pure il recapito. No, no, c'era la preghierina da fare giornalmente, quotidianamente, per cercare. Io credendoci, allora ho detto va bene, faccio, prego Sant'Antonio, vediamo che cosa, se mi dà questo aiuto. Alla fine, dopo un mese, me l'ha dato. Quindi, cioè, se, quindi avete tempo ancora, ragazzi. Hai avuto riscontri. Allora, quali sono questi santi, Fabio? Allora, abbiamo San Giuseppe da Copertino per la scienza infusa. In pratica è il santo che conosce gli stenti della vita dello studente. Dopo tanti anni di malattia e impegno riuscì a superare tutti i difficili esami e a prendere i voti, quindi aiuterà per questo. Infatti poi ci sono quelli irrecuperabili, per quelli irrecuperabili che dopo anni, cioè dopo un anno di scuola non hanno completamente studiato e toccato libro, che si possono rivolgere invece a Santa Rita da Cascia, a cui chiedere il miracolo, ecco. Quindi se volete miracoli, ecco, potete rivolgervi a Santa Rita, però diciamo è l'ultima spiaggia, certo, per i recuperabili, infatti vi avevo detto. Poi c'è chi invece ha ansia e panico, a chi si deve rivolgere. Pensa, per questo ci pensa a San Egidio. San Egidio, sì, e darà una mano ai ragazzi più ansiosi. Esso era un eremita e quindi trasmette tranquillità e calma. Ok, perfetto. Poi invece c'è Santa Zaccaria, per chi invece ha il problema quando si inceppa la lingua, si paralizza, non si blocca la facoltà del linguaggio, ecco che potete rivolgervi a Santa Zaccaria. Quindi anche noi speaker potremmo rivolgerci, sì, qualche ecco, volta potrebbe a San essere, Zaccaria. Forse è il santo degli speaker radiofonici, chissà. Poi alla fine c'è invece San Espedito da Mitilene, se il tempo stringe. E San Espedito, come suggerisce il nome, è la scelta di quanti hanno bisogno di un aiuto celeste nell'imparare miracolosamente nozioni, dati, concetti e interi programmi delle varie materie. Quindi Patrizia, me lo dovevi dire prima questo santo, due giorni fa me lo dovevi far conoscere. Adesso avete una vasta scelta di santi a cui rivolgere. Io ne avevo soltanto uno, Sant'Antonio, e invece voi avete Sant'Egidio, San Zaccaria, Sant'Espedito, San Giuseppe da Coperti e infine Santa Rita per il miracolo, quello più grande. E quindi avete questa varietà di scelta. Bene, ma parlando di santi, dobbiamo riprendere un po' Neck con la sua canzone. Congiunzione astrale. Cioè ci appizza un po', no? Esatto. Non è mai come era ieri. Cambia il senso, cambiano i pensieri. E ti sembra tutto da rifare. Sbagli se ti guardi indietro, punta avanti anche se è mezzo metro. C'è sempre una strada per viaggiare. È un'inguaribile follia saperti solo mia. È per come mi guardavi, per i tuoi silenzi seri, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare. È per quanto mi hai insegnato, senza averlo mai saputo, per la voglia che hai di ridere e di sdrammatizzare. Non siamo mai distanti, insieme andiamo avanti, questo amore non si può fermare, è congiunzione astrale. Non è mai come era ieri, ma sei un chiodo nei miei desideri e mi sembra tutto naturale. Inguaribile mania, saperti solo mia. E per come mi guardavi, per i tuoi silenzi seri, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare. E per quanto mi hai insegnato, senza averlo mai saputo. Drammatizzare,

Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. On the past, are we trying to pull you through? You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart, there's a space and now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you. Once I figured it out, you were right here on the floor. To watch, cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Yesterday is history. Oh, tomorrow's a mystery. Oh, I can see you looking back at me. Keep your eyes on me, baby. Keep your eyes on me. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest seed that's set in my heart is the space, and now you're home. Show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back here to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making to perfection. It's one, cause it's like you're my mirror. E questo era il grande Justin Timberlake con Mirrors, questo è il suo nuovo successo. Oggi proponiamo un po' i nuovi successi della primavera, dell'estate, quelle canzoni che sentiremo durante tutta l'estate. Estate ancora, forse mi sembra precoce. E vabbè, noi ancora siamo lì che ancora siamo in primavera, naturalmente sappiamo che il 21 giugno arriverà l'estate, però noi già proponiamo quei successi, quel che sentiremo sicuramente, perché questa canzone è veramente bella, questa di Justin Timberlake. Patrizia, comunque a me manca la tua preparazione meteorologica mattutina. Devo dire sì, perché poco fa avevo proposto sul sito internet, quindi web, potevate vedere. Mi sono impappinata, devo chiedere San Zaccaria, ecco. E potevate vedere appunto la nostra costa di Cefalù, il mare è molto agitato, ecco, comunico ai nostri cefaludesi, magari non vedono benissimo il mare, magari da casa propria, il mare era un po' agitato, c'è ancora un po' di vento, non so se sia maestrale o meno, però l'aria sembra essere così, tra il caldo e il freddo. Ecco, adesso ti riconosco. Ecco, va bene, dai. Però in questa atmosfera, in questo clima, si sa che è ottimo appunto per fare shopping, soprattutto noi donne sappiamo che appena ci sono queste belle giornate, queste lunghe giornate, noi ne approfittiamo per uscire, anche se non compriamo niente, devo dire. Anche solo per guardare le vetrine, oppure guarda, questo va di moda adesso, questo non va di moda, eccetera, questo eccetera. Questo lo devo comprare, questo me lo devo fare. E chi ci portiamo dietro di solito? Direi la categoria maschile. Ecco, per la maggior parte, comunque si sa, magari è usuale portarsi naturalmente il partner in giro a fare shopping, cosa che il partner odia, e tu me lo puoi sottolineare benissimo. Sì, diciamo, dipende anche dai negozi, ecco. Vabbè, certo, ma se tu sei catapultato sempre in negozi da donne, non penso che sarei così felice di accompagnare la tua donzella. No, assolutamente, io diciamo mi affido al mio smartphone. E quindi ti vaghi su internet anziché guardare i negozi. Bene, però c'è invece, adesso c'è un dato interessante È emerso da un'indagine commissionata da Naver, una delle società immobiliari internazionali presente in Italia, anche con Castel Guelfo e Vico Lungo, che ha affermato che invece le donne, per la maggior parte, si fanno accompagnare dal proprio amico a quattro zampe. Perfetto. Invece della loro dolce perfetto metà. Quindi ai ragazzi regalate un cagnolino da shopping. Da shopping, ecco. Dal sondaggio emerge che l'87% dei nostri connazionali considera il proprio cane come una parte della famiglia a tutti gli effetti, e questo si sa. E fare shopping con Fido, nel 60% delle risposte, è considerato persino più divertente che avere al seguito il proprio partner. Chissà perché. Non lo so, perché magari è silenzioso. Porta con sé per negozi l'amico a quattro zampe, l'84% dei padroni, e per il 36% di loro si tratta addirittura di un'abitudine. Pensa un poco. E quando il pet di casa fa un verso diverso da Bau, la musica non cambia. C'è chi farebbe shopping persino con il gatto, ed è il 16%, persino con il furetto. Il 5%. Naturalmente chi fa acquisti in compagnia del proprio animale va solo in posti in cui sa che Fido è una presenza gradita. E ci sono questi posti. Sono gli outlet che si piazzano al secondo posto. Sono considerati ospitali dal 49% di chi si muove con cani al seguito, preceduti in graduatoria solo dal centro città. Quindi ci sono i posti dove il nostro cane è ben accetto. Quindi, come quando andate in vacanza, ricollegandoci all'ultimo articolo letto la scorsa volta, ecco, vedete che appunto Fido può accompagnarvi anche nel vostro shopping mattutino, pomeridiano, anche serale, che si sa che poi in estate i negozi stanno aperti anche fino a tardi. Ricordiamo i nostri numeri di telefono? Sì, 0921 923292, per parlare con Patrizia. SMS al 335 5637 251, oppure su Facebook CRM Happy Radio, o ancora sul nostro sito www.crmhappyradio.it. Ok, e poi ci sono anche le repliche in podcast, che potete trovare appunto nel nostro sito, e le repliche appunto serali, sempre sulle nostre frequenze 101.4. Ora riproponiamo un altro successo, Will I Am That Power con Justin Bieber. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. What the case? Get stronger. Coming like a batterer, batterer. I'm knocking, knocking down the door again, door. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Sognare di volare e avere sempre il bisogno di nuove sensazioni per cancellare un ricordo. E non esiste un cielo senza stelle se il resto ad occhi chiusi ed oltre, oltre le nuvole guardo. Eppure gioia se penso che son vivo, anche in mezzo al casino. Eppure gioia se penso che da ieri io sono ancora in piedi. Eppure gioia se penso che son vivo, anche in mezzo al casino. Eppure gioia se penso che da ieri io sono ancora in piedi. Distendersi su un prato e respirare la luce. In un fiore e ritrovarsi a sentire. Bene, rieccoci, CRM Happy Wake Up, qui con voi sempre Fabio Di Liberto e Patrizia Curreri. E a proposito dell'avvenire estivo, noi vogliamo dare qualche consiglio, noi di CRM. I consigli riguardano appunto come mantenerci in forma per quest'estate, ma soprattutto evitare problemi dovuti alle alte temperature. Infatti una dieta equilibrata può aiutarci a mantenerci in forma in estate. In particolare sappiamo che le temperature elevate tendono a ridurre l'appetito, quindi dobbiamo reintegrare queste perdite dovute ad eccessiva sudorazione, appunto a mancanza di appetito. Quindi innanzitutto prevenire la sete assumendo almeno 1,5 litri di acqua durante tutta la giornata. E non solo in estate, aggiungerei. Sì, questo sì, però in estate soprattutto. Sì, sì. Soprattutto non bere acqua gelata per evitare congestioni. Berla a lassi di tempo, diciamo, definiti, ecco, non tutta insieme. Per quanto riguarda l'abbronzatura, cosa molto importante per voi donne, penso, vero Patrizio? Sì. Quindi iniziamo qua. Io non mi abbronzo mai, devo dire. Sì, perché tu hai una carnagione molto chiara, quindi è difficile. Arrivo proprio a stento a diventare nocciolina così, e poi dico: ma ci sei andata a mare? Io sì. Okay. Iniziamo infatti a chiederci quali sono gli alimenti necessari per aiutare la nostra pelle a mantenere una bronzatura dorata. Allora, dobbiamo mangiare molto, molte carote, prezzemolo, peperoncino, rucola, basilico, pomodori, eccetera. Questi sono, diciamo, alimenti che contengono quantità notevoli di beta-carotene, che è una sostanza appunto che aiuta a... E devo dire che è molto facile, sì, molto facile mangiare questi alimenti, appunto perché in estate, si sa, appunto, le belle insalatone non fanno mai male, anzi sono ben gradite, quindi potete mettere lì carote, rucola, basilico, pomodori, tutto quello che in estate appunto che c'è nelle nostre tavole, quindi è molto facile, quindi assumere questi alimenti in questo periodo. Sì, diciamo. E poi inoltre è anche consigliabile assumere molta vitamina A per proteggere la pelle e molta vitamina E per ritardare il processo di invecchiamento della pelle. Sempre consigli preziosi per voi donne. E infatti, perché uno pensa di... ci sono appunto naturalmente le ragazzine, sai, che amano la bronzatura, sono... sì. Però poi a lungo andare troppo la scottatura provoca appunto l'invecchiamento della pelle, e questo appunto da sottolineare. E poi naturalmente si hanno quei problemi quando si è più grandi. Certo, uno adesso non ci si pensa, ha detto vive adesso e poi dopo si vedrà, però bene anche salvaguardare la propria vita, la propria salute anche a lungo andare. Assolutamente, si inizia da ora appunto, che sia ancora in tempo. Infatti, quindi ricordo ancora il nostro numero di telefono per poter interagire con noi e per richiedere appunto la vostra musica preferita, quello che volete ascoltare questa mattina, oppure per dare le vostre opinioni sui temi che trattiamo qui con Fabio. Potete inviare un sms al 335 56 37 251, telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete seguirci su Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio ed essere aggiornati sulla nostra programmazione, sulle nostre notizie e anche sulle nostre repliche quando vengono messe in onda, e anche in podcast sul sito www.crmhappyradio.it. E continua la nostra musica, la musica di CRM Happy Wake Up, e adesso abbiamo Michael Bublé con It's a Beautiful Day. Oggi è un bellissimo giorno. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine, you said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying, it's a beautiful day to send this up. The music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to see. It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this out. And the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining.

questo era il grande Vasco Rossi, Siamo solo noi, che Daniela dedica a suo fratello Salvatore. Conoscendoli è proprio una canzone adatta a loro, dedicata a loro, veramente. Ciao Daniela, ciao. E infatti poco fa salutavamo dalla nostra web proprio lei, che ci stava ascoltando, ci sta seguendo, come ci segue ogni lunedì e venerdì, sempre puntuale, e anche lei fa le sue richieste come i nostri ascoltatori di CRM Happy Wake Up. E continuiamo un po' con le nostre notizie, ecco, con le nostre curiosità. Poco fa appunto hai parlato, Fabio, di un equilibrio gastronomico, nel senso culinario, appunto per ritrovare un po' il peso forme, ma anche difendersi anche dal sole, per avere una abbronzatura decente per l'estate, quindi per affrontare l'estate. Sì, per affrontare meglio l'estate. Sì. E invece poco fa invece dicevamo appunto della coppia, del mantenere salda una coppia, che adesso è molto difficile, soprattutto in previsione appunto di questa crisi economica, di questa attuale situazione, che appunto porta anche dei gravi appunto danni alla vita familiare sulla coppia. Però c'è stata un sito, meeting.it, un portale di incontri, che ha stilato una classifica, una specie appunto di, come possiamo dire, una ricetta, dove ha stipulato degli ingredienti, dove ha scritto degli ingredienti per mantenere saldo e stabile una relazione. Cosa serve per mantenere stabile una relazione? E quindi c'è questa lista di ingredienti. La prima cosa è la saggezza e calma zen. Questo viene appunto dalla cultura indiana, di questa calma, di questa meditazione, che anche nella coppia fa molto bene. Questo secondo me è uno dei punti più difficoltosi. Esatto, perché già è difficile riflettere su se stessi, quindi trovarsi quei 2 minuti per meditare su se stessi, pensa una coppia. Però bisogna farlo appunto per un po' riflettere sui propri comportamenti nella relazione tra uomo e donna. Poi c'è anche la protezione del rapporto. Il rapporto di coppia oggi più che mai, come appunto abbiamo detto, deve essere attentamente difeso dalle turbolenze legate agli sbalzi di umore. Volersi bene e avere un buon rapporto con il proprio partner rimane una delle poche fonti di benessere e progettualità a costo zero, ma richiede comunque la capacità di investire nel modo giusto. Poi c'è capitalizzare gli affetti, quindi in che senso? Ognuno ha il dovere di recuperare i valori che ultimamente sono stati un po' trascurati. Ecco, questa ripresa dei valori, che è importante, spesso si dà... Spesso si dà appunto per scontato il fatto che ci sia questo valore della famiglia, ma invece no, e si perde. Poi carpe diem, questo fatto che cogli l'attimo fino a un certo punto, perché poi si fa prendere troppo dal fatto di vivere ogni attimo e si perde poi appunto le cose essenziali della vita. E poi abbiamo altri tre ingredienti, che è quello: ci incontriamo di più ma ci conosciamo meno. Appunto il problema di adesso, oltre della crisi economica, è quello di usare troppo i social network, troppi questi mezzi di comunicazione, che sì, ci permettono di stare a contatto ogni minuto, però perde poi l'essenzialità del rapporto, si perde appunto la conoscenza corpo a corpo. Quindi un po' di distanza non guasta, da quello, ecco, che apprendo. E infatti un po' di mancanza, ecco, si deve sentire la mancanza, esatto, ecco, sì. Che fa questo bene, fa rinvigorire la coppia. Oddio. E poi c'è l'ecologia della mente. Serve dunque a trovare un migliore equilibrio in cui pianificare e ricercare il benessere senza evitare a tutti i costi il disagio. Il disagio non necessariamente evitato. E poi paura ha un lato buono, quindi avere paura un po' nel cercare questa stabilità, nel avere paura che l'altro magari se ne ti possa lasciare o no. Quindi questo provoca anche un'unione del rapporto. Questa è una cosa, una tattica, magari una strategia per mantenere vivo sempre quel rapporto di coppia, per renderlo sempre più stabile. Quindi sono veramente degli ingredienti interessanti, da prendere sempre con le pinze, perché ognuno poi c'è il suo rapporto. Qualcuno però potrebbe essere veramente utile, magari qualche altro no. È difficile da attuare, devo dire, perché appunto sono 2 persone che devono relazionarsi bene. Ma continua la nostra musica, e adesso arrivano i bravissimi Bastiglia con Pompei. Show, I'm the one. you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness for above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. tears, all the lies, all the ways I've been trying to make a change. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free. Bene, rieccoci su CRM Happy Wake Up, siamo a metà mattinata e continuiamo con i nostri consigli inerenti l'estate, ma anche non. Si tratta di acqua. Sappiamo che l'acqua è un bene importantissimo, ma soprattutto che è un bene finito. Però noi ci comportiamo come se potesse essere illimitata, esatto. Cosa sbagliatissima. Quello che voglio dire è questo: da una ricerca fatta da alcuni scienziati dell'University of Bonn per discutere appunto dello stato dell'acqua, è venuto fuori che l'acqua è quasi alla fine. In pratica, due generazioni e non ci sarà più acqua potabile. Ai. Questa è appunto la sentenza di questi ricercatori. Perché noi sappiamo che dirottiamo i fiumi, inquiniamo le falde, e quindi, secondo i ricercatori, se continuiamo a comportarci in questo modo, nell'arco di due generazioni l'acqua potabile non sarà più sufficiente per la maggior parte dei 9 miliardi di persone. Per cui l'acqua è un bene che deve essere particolarmente tenuto a bada, cioè non, è tutelato, sì. Non bisogna fare sprechi. Però ci dicono i ricercatori che la crisi potrebbe essere evitabile. Si deve soltanto gestire meglio la risorsa. Quindi bisogna non sprecare acqua e utilizzare soltanto quella necessaria. E esatto. Magari intensificare il monitoraggio dell'acqua, o magari salvaguardare gli ecosistemi con alcuni interventi particolari, e magari iniziare ad utilizzare l'acqua, diciamo, iniziare ad utilizzare i filtri per depurare l'acqua. Esatto, sì. E certo, bisogna avere tutela di questo grande bene che abbiamo, che spesso appunto ne approfittiamo e pensiamo che sia illimitato, appunto, come hai detto tu prima. Invece no, invece non è abbastanza limitato, come anche l'aria, secondo me, che respiriamo, perché la Venezia stiamo distruggendo con gas e emissioni di fumo veramente inquinanti e così via. Quindi dobbiamo tutelare il nostro ambiente, non prima noi stessi e poi il nostro ambiente, quindi in cui viviamo, in cui dobbiamo vivere, così come devono vivere i nostri figli e tutte le nostre generazioni future. Esattamente. Continuiamo con la nostra musica. Adesso arriva Hola con I'm in Love. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday, rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday. Wish I was not, but I'm in love. Cause I'm in love.

what keeps the planet spinning. The force from the beginning. Get Lucky a CRM Happy Wake Up, ancora con noi, con Patrizio Curreri, Fabio Di Liberto. E continua appunto anche la nostra mattinata appunto di notizie e curiosità. Parliamo un po', colleghiamo un po' le notizie di qua e di là. Infatti parliamo di crisi economica e c'è chi l'affronta in un diverso modo, come questa famiglia tedesca che vive senza spendere un soldo. Complimentoni, veramente. Spieghiamo un po' come fa. Ecco, questa famiglia infatti vive in Germania e praticamente uno dei due coniugi veniva da una famiglia molto agiata. La sua è stata una scelta di vita, ispirata a un viaggio in Messico qualche anno fa, quasi per caso. Era stato invitato al matrimonio di un amico e poi deciso di rimanere qualche tempo in più finché glielo consentivano i pochi soldi che gli rimanevano in tasca. E quindi faceva viaggi in autostop, passaggi in barca in cambio di un aiuto all'equipaggio, alloggi di fortuna in scuole, stazioni dei pompieri e così via. Ed è rimasto un bel po' di tempo in Sud America, fino a quando la sua moglie appunto è rimasta incinta e dove sono ritornati al paese natio, cioè quindi in Germania. E lì invece, tornando a casa, ha trovato un appartamento dove il proprietario ha accettato di essere pagato in piccoli lavoretti, quindi manutenzioni simili, e molto spesso invece il cibo lo prendono dalla spazzatura dei supermercati, e che spesso buttano via prodotti ancora buoni perché si avvicina la data di scadenza. Non è un furto come si qua si dice appunto si evince dall'articolo, ma i supermercati non hanno obiezioni, anzi in alcuni casi i dipendenti hanno avuto istruzioni di separare meglio il cibo potenzialmente ancora buono dalla spazzatura vera e propria, quindi c'è anche questo aiuto da parte dei supermercati. La cosa fondamentale che dice appunto questo la capofamiglia, ecco, è che spesso appunto si bocciano appunto le proposte contro il sistema finanziario, ma non ha senso secondo lui manifestare contro le banche, ma piuttosto se uno non sta bene il sistema dovrebbe semplicemente starne il più possibile al di fuori. È così, infatti. Sì, ma non è facile. No, non è facile, però magari ci lamentiamo il primo io, magari di non arrivare a fine mese e poi viaggiamo con 2-3 cellulari. Esatto. O abbonamenti di qua, abbonamenti di là, effettivamente si potrebbe. Poi seguiamo sempre il sistema, siamo sempre lì a seguire il sistema e accettare quello che ci propone senza fare obiezioni. Prima c'erano più rivoluzioni, dico io, prima non so perché e non so come mai, però prima si cercava sempre di ribellarsi a quello che ci si imponeva. C'è troppa passività. Adesso invece c'è appunto troppa passività. Ha detto proprio bene. Ma continuiamo a cantare, a muoverci, a ballare, a svegliarci. Con la nostra musica di CRM Happy Radio adesso arriva Pitbull con Feel This Moment. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. The tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Hey, young, it's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. Glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be here. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Queste sono le Cerebro con Mama Lover, CRM più Wake Up, questo trio di ragazze un po' pimpanti, ecco, diamo questa definizione, ecco, è più azzeccata. E continua la nostra mattina, siamo alle battute finali, ma non, se non prima appunto di dire anche ancora qualche notizia curiosa. Volevo appunto informarvi che tra qualche ora La nostra succede? Terra verrà sfiorata, per dire sfiorata, da un altro asteroide. E lo dici così contento, sì, che lo dico bello, contento sì. Perché gli esperti ci dicono che non c'è alcun pericolo per l'umanità, in quanto, come commentano gli studiosi, la distanza che ci separa da questo asteroide è più o meno sui 5,8 milioni di chilometri, per cui non c'è nessun problema, però ovviamente l'asteroide deve essere tenuto sott'occhio tramite appositi radar, quindi tramite il laboratorio della NASA. Quindi magari tra qualche ora avremo immagini in alta definizione di questo asteroide che tra poco passerà. Quindi si potrà vedere, chissà se si potrà vedere ad occhio nudo, non si sa. Probabilmente con un telescopio radar, ci dicono gli studiosi, è possibile vederlo. Però telescopio radar, cioè molto più amplificato, sì, certo, rispetto al telescopio tradizionale. Infatti, più preciso. Ad occhio nudo non è visibile, quindi solo... Poi vedremo appunto le immagini, sì, che tra solamente... qualche ora sicuramente ci saranno, ecco, in rete. Visto che è un giorno importante oggi, questo è il 31 maggio, come suol dire, finisce appunto il mese di maggio... E c'è un asteroide come salutiamo l'asteroide con questo fine mese, inizio di un mese che si prospetta più caldo, si prospetta Speriamo che si spera più caldo, perché ama l'estate, perché non tutti amano l'estate, amano il caldo. Io sono tra quelli che amano le temperature estive, forse perché sono nata nel periodo estivo, non lo so se questo può provocare, coincidere, appunto, può determinare questa mia preferenza, non lo so, però almeno alcuni dicono così, che in base al mese in cui nasci preferisci quel periodo, quella stagione. Io sono nato anche in mese estivo, luglio, però dico, io sono come forse lo siamo tutti, mi lamento se c'è troppo freddo, caldo. Ecco, abbiamo qua un esemplare, ecco, possiamo dirgli tutte cose a lui, quello che pensiamo di questi tizi, ecco, abbiamo qua, quindi potete inviare un sms sempre a 335-56-37-251, telefonare allo 0921-92-32-92 per insultarlo. Ecco va bene, ma continua la nostra mattina, appunto, almeno siamo alle battute finali, e adesso appunto Giorgia con Il mio giorno migliore. Speriamo che questo appunto sia veramente un giorno migliore per tutti. Viaggerò fino al mare, passando dal sole, tu mi vedrai, vengo a prenderti. Quanto costa l'amore nel telegiornale, non crederci, vengo a prenderti. Quanto basta Non nasce giorno senza un po' di luce, non si sveglia un uomo senza una speranza. Con questa frase io, Patrizia Curreri, vi saluto e vi do l'appuntamento sempre con me, sempre con CRM Happy Wake Up, lunedì, io penso oggi che venerdì dalle 9 alle 11, sempre con me, con la bella musica di CRM Happy Radio. Adesso i saluti di Fabio. Io vi saluto con una frase di Jim Morrison: vivere senza tentare significa rimanere col dubbio che ce l'avresti fatta. Bellissima. Alla prossima con CRM Happy Wake Up. Ciao ciao a tutti, ciao. Buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.